Che mai vuol dire felicità? Vuol dire entrare in questo bar, sedere, guardare e comandare. Per me, Hernando, un caffè vuole, un caffè corretto più rum, corretto gin, in quel bicchiere che piace a me. Per me, Hernando, tre caffè vuole. Chiudo gli occhi e tutto è bello intorno a me. Nel mondo tutto si trasforma accanto a me. Al mio tavolino, bella come Marilyn, mi par di parlarmi ancora il primo amore. Ancora caffè corretto più G, corretto rum, in quel bicchiere che piace a me. Per me, Hernando, sei caffè vuole. Che mai vuol dire felicità? Vuol dire entrare in questo bar, sedere, guardare e comandare. Per me, Hernando, un caffè vuole. Caffè, corretto più rum, corretto gin, in quel bicchiere che piace a me. Per me, Hernando, tre caffè vuole. Questo chiudo gli occhi e tutto è bello intorno a me. Il mondo tutto si trasforma tanto a me. Il mio tavolino bella come me, mi par di parlarmi ancora il primo amore. Ancora caffè corretto G, più G, corretto rum, in quel bicchiere che piace a me. Per me, Hernando, sei caffè vuole. Caffè, olè.